magnetisme spațiale subtropicale. Una puntata dicembrina, una puntata open air. Siamo qui infatti con il nostro amico ospite DJ Asghana Wana. Eh sì, anche se è dicembre, amici e amiche, siamo all'aperto, siamo Piazza d'Armi di Sinistra del Forte alle ore 13:30. Eh sì, perché noi siamo in differita, amici. Siamo una trasmissione registratissima. Davanti a noi c'è Jimbo, che usa la sua bravetta privata, e stiamo cercando di capire e affrontare questo meta Natale, questo natalino, questo nataliota. Anche quest'anno, amici, siamo tutti quanti sotto botta di Super Green Pass, Mega Green Fast, e chi più ne ha più ne metta. Ognuno di noi dovrà dimostrare di potersi meritare la libertà che prima era data per scontata. Un test di un nuovo Natale, di un meta Natale. Metà Natale, io direi, e a me me ne bastavano tre quarti. Poi non ce la fai, non ti regge più la puttana. Eh sì, infatti dopo il metaverso del nostro caro amico compagno Zuckerberg, dopo il lancio del metaverso, questo Natale si proietta e si prospetta come un Natale indifferito, proprio come la nostra trasmissione, un Natale dal proprio computer, un Natale preregistrato. Eh sì, molti di noi parteciperanno a un cenone sul proprio schermo, via web, on the net. Eh sì, e molti di noi già stanno pensando di pre-registrare la cena di Natale e far vedere una registrazione agli amici, così per poter essere veramente liberi di stare in mutande e sbrodolarsi come vogliono. Sì, amici e amiche, finalmente un Natale libero, un Natale finto, un Natale preregistrato, un Natale coi filtri, coi filtri di bellezza, coi filtri delle luci. Mentre invece qui, amici, da Radio Forte, qui da Eclettismi, il Natale sarà una merda come al solito, pieno di immondizia, scarti, ricicli, cenoni e avanzi della cena, litigi, parenti insopportabili, persone che non vuoi vedere, soldi buttati, indigestioni, diarree. Eh sì, un Natale tutto intero, non un meta Natale come vorrebbero. Sarà un Natale pieno di merda. Dobbiamo stare in casa e sopportarci. E quindi l'unico modo per sopravvivere è volersi bene. What one guy he ever feared? It was Akeem Olajuwon. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby immediately I realized the importance of my position to basketball at the center. Yes, the center position impact the game in so many ways. Grazie, grazie DJ Christmas. Ciao, sono DJ Metaverso. Vivo a sud del Metaverso. Sono qui per portarvi delle novità natalizie. Per le vostre noiose, ripetitive cene e pranzi di Natale abbiamo pensato a una soluzione che trasformerà le vostre serate in stupefacenti esperienze. Gli psico-occhiali, solo per voi che ascoltate Radio Forte a un ridicolo prezzo di 9,99, gli psico-occhiali. Funzionano così. Quando stai nel metaverso a cena con i tuoi parenti, colleghi gli occhiali al tuo avatar e nel menu in alto a destra del tuo occhio destro puoi scegliere una droga da prendere. Nel pacchetto standard sono inserite un fungo e una goccia di LSD, ma potrete comprare con moneta digitale qualsiasi altra cosa. Quando il tuo avatar assume la metadroga, gli occhiali ti trasportano in un colorato multiverso, trasformando la grigia serata parentale in allucinogeni esperienze. La cosa figa è che l'avatar continuerà a rispondere ai parenti con frasi preimpostate e con una serie di cose tipo sorrisi, spallucce, barzellette, cose eccetera, mentre tu farai un viaggio nel multiverso sud tropicale. Solo 9,99, amiche, solo 9,99. E per quest'anno, care amiche e cari amici, qui da Eclettismi abbiamo deciso di offrirvi un servizio di video di cena di Natale. Un video molto speciale dove ci saranno i nostri corpi allegri e gioiosi, ma con attaccate sopra le vostre facce, così che potrete condividere la nostra allegria con il vostro volto, con i vostri parenti lontani, su tutti i monitor compatibili, pagabili con Bitcoin, Ethereum Coin e Shitcoin sul metaverso di Eclettismi Spaziali Subtropicali. Baba dia baba sere fatu baba bausa baba wose la mi C'è oltre Babbo Natale lì? Krampus, il cattivo di Babbo Natale, quello che te si porta via quando fai il cattivo. Cioè? Te si porta via dove? Te si magna. Se magna a che ora? A notte del 24 dicembre. Il Krampus. Il Krampus. Venisse il Krampus. Sì, venisse il Krampus. Vai. Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Ron, Kimbe y Matumbo. Con Paola Milevic questo Natale tra fede e disagrazione. Thank you. Allora, io mi trovo nel traffico romano sotto Natale, è come se fosse un qualsiasi giorno di, del dopoguerra, dal boom economico in poi, insomma, con macchine ovunque e in più l'aggiunta di, dei veicoli della cosiddetta mobilità green, no? I monopatti, qualche bici elettrica, che però ancora non hanno sicuramente avuto l'effetto di cancellare questa piaga della città eterna, diciamo. E poi ci sono ancora tante persone in macchina che indossano la loro mascherina. Questa mascherina che insomma ricorda lo spettro del lockdown e di nuove restrizioni che potrebbero arrivare nonostante la percentuale di vaccinati altissima che ci pone in Italia tra i più alti paesi europei, no? Buon Natale a tutti e tutti! Thank you. Coca-Cola, McDonald's, cioè niente, qualcosa, la chiesa, queste cazzate qua, niente, solo Babbo Natale, consumismo di merda, eccetera, basta. Neanche Dio Mitra? Niente, niente. Sono un classico di fine anno. Le polemiche sui simboli del Natale fanno la loro comparsa puntuali ogni dicembre, con i primi freddi e i primi addobbi. E quest'anno tocca a Babbo Natale. Io sono dal 92 al 95. Comunque anni 90. Quali sono i tuoi ricordi del Natale nel 95? Tristissimi, tristissimi. Brava, io pure ho detto quella cosa, cioè. Tu hai detto così? Sì, sì, io ho detto per questo. Ho Babbo Natale nel 95. E cioè? Cioè l'hai scoperto perché l'hai denudato. No, praticamente ci stavano i suoi vestiti per terra del salone. E quindi? E quindi niente, ho scoperto questi vestiti per terra, l'ho trovati e poi sono andata in camera, mio padre non c'era, stava in bagno, ho fatto 2+2. E ho scoperto che era mio padre Babbo Natale. Tuo padre? Wow. L'infanzia difficile. Tuo padre Babbo Natale. Che poi i ragazzini adesso ci credono, non si sa che cazzo fanno. Dai, hai visto coso? Contribuito il vaccino e come puoi vedere per questa è nata l'idea del presepe tutti con il Green Pass, perché dovranno affrontare questo lungo viaggio per andare alla Natività e quindi Re Magi e non solo hanno tanto di certificazioni. Cari amiche e cari amici, in attesa di questa notte magica, di questa notte mistica, la notte di Natale, beh, di sicuro il rito cristiano affonda le sue radici nella cultura europea del nord Europa e Babbo Natale rappresentato dalla famosa marca di bevande. In realtà, in comune con questa immagine ormai impressa nella nostra cultura consumistica, in comune ha soltanto i colori, e cioè il bianco e il rosso. Perché sì, ragazzi, Babbo Natale in realtà della cultura del nord Europa è un fungo allucinogeno. La manita muscaria, la casetta dei puffi blu di Peio, e questo vecchietto associato con Babbo Natale non era nient'altro che un raccoglitore di amanita muscaria che portava in dono in queste notti gelide gerle colme di funghi allucinogeni che avrebbero molto probabilmente rallegrato queste serate chiuse in casa e avrebbe dato un po' di calore e un po' di estro, un po' di gioia alle popolazioni alle quali veniva portato questo dono. Babbo Natale è spesso associato a delle renne volanti e anche questa immagine è legata a questo fungo fantastico. Beh sì, le renne sono infatti ghiotte di amanita muscaria e la notte, dopo averne fatta indigestione, le si possono vedere vagare nel bosco strafatte e divertite. Quindi abbasso Babbo Natale della famosa bevanda, abbasso Amazon Babbo Natale e viva i vecchi culti della manita muscaria e dei funghi, senza i quali non ci sarebbe vita sulla terra. We'll be right back. rispettano questi imbecilli. Lei dirà buon Natale? Ma io lo dirò naturalmente ai cattolici o ai cristiani più in generale che ci credono. Quando si parla di Europa, dove ormai c'è un'enorme interreligiosità, ma interculturalità, la cosa è molto più vasta, io sarei dell'idea che le feste religiose ognuno si fa le sue. Quando arriva una festa religiosa, se uno ha amici di quella religione gli fa gli auguri, benissimo, no? Buon Natale, buon Yom Kippur, buon Ramadan, eccetera. Sappiamo tutti che il Natale era il Natale di Roma. Nella Bibbia non c'è scritto, nel Vangeli non c'è scritto quando Gesù è nato, in che periodo dell'anno nemmeno. Il cristianesimo si è appropriato del Natale e del sole invitto, che era una festività non solo pagana ma addirittura legata ovviamente alle stagioni. L'ha fatto suo, va benissimo, no? Però questo non significa, no, che in realtà sia poi così religiosa come si pensa. In ogni paese, in ogni area, le festività rispettano la civiltà, la tradizione, non so. È capitato di ricevere il regalo sbagliato, ma a tutti è capitato di fare il regalo sbagliato. Perché si fanno regali sbagliati? Secondo me perché noi proiettiamo sugli altri un'idea che abbiamo di loro che spesso non corrisponde alla realtà. Quindi la soluzione quale può essere? Invece di proiettare sugli altri, regaliamo un bel abbonamento al cinema e abbiamo risolto. Tengo tantos registros que ya ni me registran. A mí no me convence tanta mierda que hablan. Tengo un compito guarro, bajo de con tu ganga. Y soy jaiquilito, africano mi sitio. Tengo tantos registros que ya ni me registran. A mí no me convence tanta mierda que hablan. Tengo un compito guarro, bajo de con tu ganga. Hasta atrás pa' que sepa, abriendo tu mente, tu culo se cierra. Huele que huele, ese coco está duro en la calle en alerta. Púlasela, dale fuego y verás cuando acaba la noche. Se hace de noche, el alba no encuentro. Enseña su cuerno metiéndome dentro. A mí que me encanta, entre sin pensar, muévelo pa'. Hagan a gusto que no habilí. Por la boti, por como chisma al pa'. Venga, trae más salí. Eso es porque no ni más chisma. El primer mes, me llevo el libro. El primer mes, me llevo el chisma. Y ni siquiera aquí está, hay culo. sotto l'albero quest'anno ci metto il concime, oppure i raparoli e i cavoli, non so, decido il 24. Dicendo per l'appunto che se uno va a vedere da dove è nato Babbo Natale e San Nicola di Bari, il quale tra l'altro con Bari non ha nulla a che vedere se non il fatto che una parte del suo corpo è lì, perché San Nicola era un turco, no, perlomeno veniva dall'Anatolia, no? Aveva partecipato al congresso, al concilio di Nicea, aveva schiaffeggiato Ario e metà del suo corpo sta a Bari, per questo si chiama San Nicola di Bari, l'altra metà sta a Venezia. E poiché si chiamava San Nicola, nelle lingue nord europee è diventato San Nicolaus, Santa Claus, come poi San Nicola sia salito su una slitta tirata dalle renne sono fatti suoi, è vero che il vestito rosso tra l'altro arriva da questioni commerciali, quindi quella è una leggenda che uno può raccontare come tale, ma non credo che abbia niente a che vedere con la religione, mentre invece è Natale, sì, lo dicevo al Natale, però è professore della pubblicità, sì, vabbè, ma dobbiamo cancellare tutto e riniziare da capo, ci ammazziamo, cioè. Gay di Babbo Natale, guardiamo anche questa. Gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. É uma questão. subestime. No subestime. No subestime. No subestime. No subestime. No subestime. No subestime. Arriva invece lo spot del servizio postale norvegese che, per celebrare le feste nel modo più inclusivo possibile, propone una storia romantica fra Babbo Natale e un brizzolato cinquantenne di nome Herr. In Germania invece la Vergine Maria ha il volto di un uomo con tanto di barba e baffi. La confusione sembra dominare il dibattito pubblico europeo, poco consapevole del confine tra le giuste battaglie per l'inclusione e il rispetto della sensibilità dei credenti. Sono mille campanelle che ci augurano un buon Natale. Oh, campanelle, campanelle, tintinnio d'amore. Oggi è festa un'altra volta, ma che festa bella. Campanelle, campanelle, suona ancora belle. Dalle stelle fino al cielo, tutti giù per... Era una notte di Natale fredda e deserta, qualcuno alla stazione. Ela diz que é moralista e que na sua lista pra semana inteira nunca tem besteira. E se eu tiver convite pra não convidar? Diz que quem quiser se irrite, mas moça de elite, de sociedade, não tem amizade com quem sobe o morro pra querer sambar. Só que sem ter samba eu morro e um amor eu mato. Sem qualquer remorso, sem qualquer maltrato, sem qualquer desgosto pro meu coração. Ela diz que o samba é coisa que vem do diabo, que samba é maldade, que samba é pecado. Mas por ela o samba eu não troco, não. Se é pecado samba, pecador eu sou. Pecador eu sou. Na sua lista, pra semana inteira nunca tem besteira. E se eu tiver convite pra não convidar? Diz que quem quiser se irrite, mas moça de elite, de sociedade, não tem amizade com quem sobe o morro pra querer sambar. Estrade, come dire, allegoriche e a volte volgari. per i propri diritti, così non arrivano da nessuna parte. Babbo Natale è un sogno dei bambini e lasciamolo spostare. Se qualche bambino ci sta seguendo a quest'ora, Babbo Natale esiste. Punto. Va bene. Se è peccato samba, peccatore io sono. Buongiorno, buonasera a tutte, a tutti. Vengo da una notte molto profonda. Vengo da un sogno. I have a dream. Ho trovato la formula per risolvere in un solo colpo il problema della sovrappopolazione globale e la crisi climatica, il riscaldamento della terra e soprattutto l'uso massivo di energie rinnovabili. L'ho visto chiaro, l'ho visto questa notte, un sogno che viene dal futuro, un futuro che verrà presto. Fabbriche enormi, navi industriali piene di letti, computer, schermi. Mettiamo una schiera di bambini e bambine di tutto il mondo a giocare a videogiochi tutto il santo giorno. E più giocano, più generano energia. Riattacchiamo tutti quanti alla presa elettrica come se fossero le grandi batterie bioorganiche che ci possono aiutare a produrre tutta l'energia che ci serve senza più utilizzare le energie fossili. Pensatelo bene, di un colpo avremmo a disposizione un sacco di energia e finalmente non avremo più il problema di quei bambini scassaminchia che ti gridano sotto casa mentre giocano a pallone e tu li devi minacciare per bucargli il pallone. Tra l'altro, nel frattempo, staremmo pure risolvendo il problema dell'energia globale. Insomma, io credo che questo sogno si può convertire in un progetto politico. Un progetto politico per la dominazione globale del 2050 che attraverso Meta e attraverso i videogiochi ci porteranno al miglioramento della qualità di vita globale in ogni angolo del pianeta. Sognate con me, unitevi a questo nuovo sogno, a questo nuovo progetto rivoluzionario che ci permetterà di vivere liberi, senza bambini e un nuovo mondo ecologico, ecosostenibile, biodegradabile e biostigazzi. Ed eccoci qua, amici, anche questa puntata volge al termine. Una puntata stramba, una puntata calda, una puntata gelata, una puntata fuori dalle righe, una puntata innevata. E per quest'anno vorrei fare i miei meta auguri a tutti coloro che non hanno più accesso o non hanno accesso al calore, a un pasto caldo, al calore umano, al calore di un abbraccio, al calore di un amico. Eh sì, il mio pensiero va a tutti coloro che in questo meta Natale non hanno accesso alle cose più semplici di un Natale normale. Un abbraccio a tutti voi, un mega augurio, un meta augurio da Eclettismi Spaziali Sottropicali. Yeah. chiudiamo la puntata con questi ritmi caraibici de Eloise Trio. Beh, penso che davanti a voi avete delle alternative per questo meta Natale, dallo scambio di avatar agli psicoocchiali, a proposito solo 9,99, e se avete figli per esempio potete attaccarli alla presa elettrica per produrre energia pulita. Per l'anno prossimo i nostri veggenti prevedono solo una piccola apocalisse, un po' di zombismo in Sud Italia. Per il resto, come si dice, andrà tutto bene. Un abbraccio, ci risentiamo l'anno prossimo, sempre su Radio Forte. Potete riascoltare tutti i podcast su fortetrenestino.net/radioforte/rubriche/eclettismi spaziali sud tropicali. Ciao!